Datemi un coltello per favore. Dov'è quel cuore bandito che ha tradito il mio povero cuore, l'ha smontato infinito. Dov'è? Preferisco ritornare.